Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia consueta, grazie anche a Tommaso Sacchi per aver sostituito al mio fianco l'Oliva che era in spirito e grazie ad Ambrogio Volpi per il prezioso documento che ci ha inviato, ne faremo buon uso, speriamo, e un caro saluto a Nonno Gigi che ci aspetta.